Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Da qualche tempo circolano offerte commerciali a proposito di vernici isolanti che sarebbero in grado di sostituire i materiali isolanti tipicamente usati nell'edilizia, dal polistirene alle varie fibre, fibra di vetro, fibra di legno e così via. Spesso il messaggio che viene dato è che basta uno strato millimetrico di queste vernici per ottenere lo stesso effetto di un tradizionale cappotto. Questa sera allora cercheremo di fare chiarezza sull'argomento con l'aiuto di Valeria Erba, che è presidente di ANI, l'Associazione Italiana per l'Isolamento Termico e Acustico. Buonasera Erba. Buonasera a tutti. Allora Erba, basta una mano di vernice o magari due o tre, insomma qualche millimetro di vernice per ottenere lo stesso effetto di un cappotto? No, decisamente no, okay. Non basta. Ci spieghi perché? Perché sì, perché per tanti motivi. Allora, se parliamo di isolamento in generale, anche il mio golf appoggiato alla parete isola. Certo. Qualsiasi strato aggiungo su una parete mi isola. Bisogna distinguere poi il discorso di isolamento per l'inverno e isolamento per l'estate. Adesso parlando di isolamento invernale, sì, quindi perché stiamo parlando di riduzione dei consumi, dobbiamo identificare quelli che sono i parametri che mi dicono se un materiale isola e quanto isola. Se è un buon isolante, quindi, o un cattivo. Tutto isola, ma ci sono un pezzo di metallo, un pessimo isolante, un pezzo di lana di vetro è un buon isolante, no? Per dire. Certo, ovviamente. Perché? Ci sono materiali e materiali. Il parametro che identifica la capacità di isolamento è la conduttività, si chiama, che è il parametro che mi dice quanto isola un materiale, che è tipico del materiale. Però non basta quello, perché quello deve essere associato a uno spessore. Certo. Perché più spessore ho, ovviamente più è spesso lo strato che io vado a mettere, maggiore è l'isolamento. Cioè questo lambda, questa conducibilità termica, è una caratteristica intrinseca, ma poi dipende da quanto ne mettiamo. Evidentemente. Quindi in funzione poi dello spessore e della caratteristica di lambda io posso definire quanto isola questo strato di materiale. Ovviamente. Ecco, quindi esistono dei materiali con un lambda così piccolo che ne bastano pochi millimetri per fare un cappotto? No, attualmente in commercio non esistono materiali con un lambda talmente basso da eguagliare il parametro che può dare un cappotto anche da 5 centimetri, che è un cappotto basic che non sì, si può più fare. Ecco, questo voglio questo. Ecco, per dire, neanche i pannelli sottovuoto, che sono la tecnologia con l'isolamento in assoluto più spinto, posato in millimetri servirebbe a nulla sostanzialmente, no? Assolutamente, perché sul mercato oggi i prodotti presenti sul mercato, così denominati vernici isolanti, o propongono dei valori di lambda comunque alti e poi dicono che in pochi millimetri riescono a isolare, ma non si capisce in che modo, ma questo solo perché non il professionista o l'utente finale non capisce che deve abbinare. Bene la differenza, insomma giocano un po' sui termini, sfruttano questo lambda spacciandolo per quello che non è, esatto. E questo è un primo tema, ma poi c'è forse anche di peggio. Sì, poi c'è chi invece dichiara dei lambda, quindi delle conducibilità bassissime, quindi questi valori che dicevamo prima. Assurde, assurdamente basse, no? Che sul mercato attualmente non c'è un produttore che io conosca, poi mettiamoci anche l'ipotesi che possa esserci, che ha delle dichiarazioni di prestazione di questo lambda certificate e scientificamente provate. Qui stiamo parlando di fisica tecnica, sì, di cose strane. Sì, ecco. Sì. Quindi nella fisica tecnica parliamo di cose ben note. Sì. Non c'è un materiale che mi possa dare un lambda talmente basso che in pochi millimetri mi riesce a, ma neanche a rispettare i limiti di legge, diciamo, però a isolare effettivamente nel periodo invernale, quindi isolare termicamente d'inverno il mio edificio. Ecco, per chiarezza, precisiamo che esistono invece delle vernici che hanno, diciamo, danno dei benefici anche significativi in termini di risparmio energetico, che però non hanno niente a che fare con l'isolamento invernale. Ci spiega brevemente? Sì, esistono queste vernici termoriflettenti che funzionano bene proprio nel periodo estivo perché riflettono la luce del sole e scaricano molto il caldo di notte eventuale che si è accumulato. In questo modo la superficie è più fredda rispetto a una superficie normale, ecco, e funziona molto bene. Funziona molto bene, ci sono per esempio una guaina di catrame nero, arriva a temperature sotto il sole, ci sono tanti palazzi per esempio che hanno un terrazzo così, arrivano a temperature di 60, 70, 80 gradi, con questi materiali molto riflettenti si arriva addirittura a 30-40, quindi c'è una differenza abissale per chi ci vive sotto, per esempio, no? Ma io faccio un piccolo esempio, se uno solo va a guardare tutte le coperture piane che ci sono al sud Italia, sono tutte bianche. Sono tutte bianche. Un motivo ci sarà. Attenzione, tornando al discorso delle vernici isolanti che vengono molto pubblicizzate, spesso e volentieri questi produttori spacciano queste prestazioni estive che effettivamente ci sono anche dal punto di vista invernale, facendo molta confusione, creando molta confusione. Mentre sono cose completamente diverse. Quello che funziona bene come isolamento invernale non ha niente a che vedere con queste vernici riflettenti. Va bene, grazie ancora Valeria Erba. Ci mancherebbe. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento. A domani.